con Armando Punzo della Compagnia della Fortezza per presentare Il Figlio della Tempesta, progetto musicale performativo in occasione dei 30 anni della compagnia a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, 28 febbraio e 1 marzo 2019. Armando, ben trovato. Salve, salve. Ci presenti questo lavoro? Ma guarda, cioè dietro questo lavoro fondamentalmente c'è una vita passata insieme al musicista, cioè Andrea Salvadori, che è il compositore delle musiche della compagnia Fortezza, cioè anni e anni e anni veramente di lavoro insieme. Questo che significa? Significa che chi vedrà, chi gli spettatori si troveranno di fronte a un concerto, spettacolo, in qualche modo, perché ci saranno musiche, parole, immagini, no? Per ricordare, comunque per entrare in questo mondo della compagnia Fortezza che attraversa in qualche modo un po' questi 30 anni. Ed è questo, cioè in fondo è la storia di un rapporto anche tra me e il musicista della compagnia, fondamentalmente la compagnia della Fortezza. Come avete pensato questa performance musicale? Ma guarda, è nato proprio dal bisogno di anche far conoscere una parte del lavoro che è fondamentale, sempre più fondamentale nel mio lavoro, che sono il rapporto con la musica. Questo lavoro quotidiano che viene fatto all'interno del carcere Volterra con un compositore, un musicista, che non semplicemente arriva quando lo spettacolo è fatto, guarda o comunque e fa le musiche dello spettacolo, ma che lavora con me, lavora insieme con noi quotidianamente, ed è quindi un modo estremamente particolare di arrivare a comporre le musiche. Cioè, pensa che i nostri lavori, diciamo, gli spettacoli grandi, importanti alla compagnia, hanno uno sviluppo normalmente di 2 anni. Quindi è evidente che le musiche diventano, come dire, drammaturgia, diventano allo stesso modo, cioè non è solo un accompagnamento, non è solo un sottofondo, ma veramente diventano parte integrante, cioè una parte importantissima. A volte si dice, come dire, qua siamo quasi sull'onda di una sorta di melodramma, cioè nel senso che la musica è veramente un aspetto importante. Quindi questo tipo di relazione abbiamo pensato che era giusto in qualche modo farlo conoscere. Andrea Salvadori poi quest'anno ha vinto il premio UBU come miglior compositore, come miglior compositore di musiche dal vivo, anche per lo spettacolo di aiuto della compagnia Fortezza. Quindi abbiamo pensato che era un momento assolutamente, era necessario in qualche modo provare a far ascoltare anche le musiche, no? Della compagnia Fortezza. A questo chiaramente ci sono anch'io in scena e ripercorro quello che sono i testi tra i più importanti, tanti, ma insomma non tutti, ma tra quelli che sono i più importanti degli ultimi 10 anni, insomma, più o meno. Raccontiamo anche a chi ci ascolta l'esperienza trentennale della compagnia. Ma la compagnia Fortezza, insomma, è una compagnia di detenuti che nasce all'interno del carcere Volterra appunto 30 anni fa, nel 1988. E nasce questa compagnia particolare, insomma, all'interno di un carcere, semplicemente perché io in quel momento storico, 30 anni fa, cercavo di trovare come una sorta di punto zero del teatro, cioè come rimmaginare completamente il teatro. Che significa questo? Io non trovavo interessante in quel momento lavorare nei teatri ufficiali, ma non mi interessava nemmeno veramente il teatro di ricerca, quello che vedevo in quel momento. Mi sembrava che fosse tutta una sorta di fase di declino. Quindi avevo bisogno di energie assolutamente nuove, un punto di vista completamente altro, cioè avevo bisogno di uno sguardo altro, avevo bisogno di guardare da un'altra parte, proprio dove non guardavano gli altri. Quindi qui a Volterra per me era finita un'altra esperienza importante, che era quella del gruppo internazionale Aventura, che veniva dal lavoro di Grotowski, questo regista polacco, insomma, questo grande maestro, e ho pensato di entrare all'interno del carcere. Ho pensato lì ci potessero essere persone che non avessero a che fare, come normalmente si pensa, con la cultura, con l'arte, la poesia, la bellezza, e che si potesse insieme proprio riscoprire le potenzialità del teatro. E quindi ho chiesto di entrare nel carcere Volterra ed eccomi qui. Sono 30 anni, non sono mai più uscito. Questo spettacolo sta facendo il suo percorso? Ma sì, insomma, abbiamo debuttato pochi giorni fa a Teatro La Soffitta a Bologna, insomma, all'interno del Dams, dove abbiamo debuttato questo lavoro. È un lavoro ancora a cui, come in progress, quindi insomma, in questi giorni a Roma presenteremo ancora una piccola evoluzione di questo lavoro. Insomma, sai, ogni spettacolo, quando ha i primi debutti servono anche proprio per calibrare meglio, insomma, è tutto. Quindi sì, è un lavoro ancora in fiera, ancora insomma c'ha la sua struttura, c'ha tutto, ma è ancora un lavoro a cui stiamo pensando. Nel complesso la compagnia è impegnata in qualche progetto di qui a venire? Ma guarda, noi siamo in questo momento per la questione dei festeggiamenti di 30 anni, siamo, come dire, stiamo elaborando quello che è il nuovo pensiero per il nuovo lavoro, cioè che presenteremo a luglio di quest'anno in un primo studio. E poi abbiamo una tournée in Italia, insomma ritorneremo a Bologna dove faremo uno spettacolo a fine mese, fine marzo, poi saremo in Sardegna proprio subito dopo la Pasqua, proprio i giorni immediatamente dopo la Pasqua, insomma abbiamo tante altre attività, insomma laboratori, Mondaino, laboratorio insomma teatrale per attori, insomma persone che vogliono conoscere l'esperienza, il mio modo di lavorare, il mio modo di lavoro, e sono tutti comunque aspetti del lavoro della compagnia Fortezza, anche il lavoro che facciamo in laboratorio a Mondaino, per dire, è un laboratorio comunque connesso al nuovo lavoro che sto preparando con la compagnia. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, Il figlio della tempesta, progetto musicale performativo in occasione dei 30 anni della compagnia della Fortezza, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, 28 febbraio e 1 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento alle ore 21, un saluto e ringraziamento ad Armando Punzo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, assolutamente grazie.